Letture di Radio 24. Nel libro Il piombo e il silenzio, pubblicato dalle Edizioni San Paolo, vengono catalogate le 356 vittime del terrorismo rosso e nero che ha insanguinato l'Italia dal 1967 al 2003. Uccisi due volte, come sostengono i due autori del volume, prima dal piombo, poi dal silenzio. E mentre le vittime vengono spesso dimenticate, i loro assassini si sono velocemente reinseriti nella società, in un paese che ha troppa fretta di chiudere i conti con uno dei capitoli più oscuri della propria storia. Quattro prime donne del terrorismo sono finite recentemente sui giornali. Una è Anna Laura Braghetti, condannata per l'uccisione di Aldo Moro. L'Espresso del 25 ottobre 2007 racconta che Braghetti fa festa. L'ex primula rossa delle BR romane ha riconquistato la piena libertà. Con una festa organizzata sulla via Nomentana a Roma, ha voluto accanto a sé gli amici e i colleghi di Italia Lavoro, l'agenzia del Ministero del Lavoro, con la quale collabora. Tra gli invitati, Alessandra De Luca, anche lei brigatista nel processo Moro, candidata con Rifondazione Comunista alle regionali del Lazio e oggi collaboratrice per l'assessorato alle politiche del lavoro della provincia di Roma. Tra i progetti della Braghetti, un viaggio all'estero con il suo fidanzato, Paolo, agente della Polizia Municipale Romana. La seconda è Susanna Ronconi, che stava in prima linea, condannata a 12 anni per l'omicidio di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci a Padova nel 1974. Fuori da tempo, accolta da Don Ciotti nel gruppo Abele, è diventata esperta di lotta alla droga. Nel dicembre del 2006, il ministro della Solidarietà Sociale, il rifondatore comunista Paolo Ferrero, l'ha nominata nella nuova consulta nazionale sulle tossicodipendenze. Dopo aspre polemiche, lei stessa ha rinunciato all'incarico. Domanda: con tutti gli esperti di droga che ci sono in Italia, perché proprio lei? Perché lo Stato deve pagare con soldi pubblici una persona che quello stesso Stato ha tentato di colpire al cuore? La terza signora in rosso è Barbara Balzerani. Dopo 21 anni e mezzo di galera, ottiene la libertà vigilata nello stesso dicembre 2006. Una dura e pura, che confessa di non avere nessun senso di colpa. Un capo BR, la donna del capo dei capi BR, Mario Moretti. C'era anche lei in via Fani a rapire Moro e ammazzare la scorta. Insieme a Mario Moretti, Prospero Gallinari, Valerio Morucci, Franco Bonisoli, Raffaele Fiore, Bruno Seghetti, Rita Algranati, Alessio Casimirri, Alvaro Lo Iacono. Frequenterà l'infame prigione del popolo dove è tenuto Moro e dove sarà ucciso, e dove ci sono anche la Braghetti e Germano Maccari, poi morto in carcere. Saranno tutti arrestati, meno Casimirri che, libero, fa il ristoratore in Nicaragua. La Balzerani, nome di battaglia Sara, organizza con altri il sequestro del generale americano James Lee Dozier a Verona nel 1981. Ma la polizia lo libera. La prendono il 19 giugno 1985 a Ostia. Adesso è fuori, scrive Liberi, senza sensi di colpa. Del comando di Via Fani, in galera c'è solo Rita Algranati, presa nel 2004. Infine, ecco Marina Petrella. La arrestano nell'agosto del 2007 a Parigi, dove vive da 14 anni facendo l'assistente sociale. Protetta dalla dottrina Mitterrand, la teoria e la pratica instaurata a suo tempo dal presidente socialista, che ha permesso a decine di terroristi e fiancheggiatori italiani di vivere indisturbati oltre confine. Unico obbligo: comportarsi bene in terra di Francia. Se in Italia avevano ammazzato qualcuno, peggio per lui, il morto. Si è andati avanti così fino al 2002, quando, presidente Chirac, per la prima volta ci venne restituito un brigatista, Paolo Persichetti. Oggi Sarkozy pare intenzionato a cambiare strada. Oltre Alpe ci sono ancora una trentina di terroristi latitanti ricercati di primo piano. Marina Petrella ha un ergastolo da scontare. Nel suo curriculum criminale, il rapimento del magistrato Giovanni D'Urso, liberato dopo un mese circa tra il dicembre 1980 e il gennaio 1981, l'omicidio del generale dei carabinieri Enrico Galvaligi e del poliziotto Sebastiano Vinci, il tentato sequestro del vicecapo della Digos, Nicola Simone. Bella famiglia brigatista. Il primo marito di Marina, Luigi Novelli, è condannato all'ergastolo, ma può lasciare il carcere. Il fratello, Stefano Petrella, è anche lui fuori con i benefici di legge. Quando i francesi nel 2004 presero Cesare Battisti, altro assassino divenuto scrittore di libri gialli a Parigi, poi fuggito, oggi arrestato in Brasile, Marina Petrella scrisse sull'Humanité, giornale della sinistra, «La Francia rinnega se stessa e l'Italia agisce per pura vendetta. Ma io ho abbandonato ogni attività politica, il prolungamento di ciò che sono stata e oggi il mio lavoro nel sociale, nell'educazione popolare. Tutti noi ci siamo costruiti in Francia una nuova vita, senza negare quello che siamo stati. Cacciarci dalla Francia non risolverà niente, anzi, non farà che allungare la lista delle vittime. Se domani venissi estradata in Italia, ad essere rovinati come me ci sarebbero mio marito e mia figlia, cittadini francesi. Capito il concetto? Quel che è stato, non siamo quelli di una volta, ci siamo rifatti una vita. La prigione? Sarebbe un gesto vendicativo. E i morti? E le loro famiglie? Peggio per loro. Una logica aberrante, che purtroppo ha preso piede in parecchi ambienti della politica, dell'informazione, della vita sociale italiana di questi anni. Basta col terrorismo. Lasciamoli in pace, sono cambiati, hanno diritto a riprovarci. Perché questa logica non si applica anche a Priebke e agli altri assassini nazisti? In fondo anche loro non sono più quelli di una volta, hanno minimo 80 anni. Ma no, vale solo per i compagni che hanno sbagliato, senza alcun rispetto per le vittime e i loro familiari. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dal libro di Renzo Agasso e Domenico Agasso Junior, Il piombo e il silenzio, le vittime del terrorismo in Italia, San Paolo Editore, 240 pagine, 15 euro.